Capitolo 4. I primi passi. Il lunedì mattina Nat entrò nella scuola con un senso di sgomento all'idea che avrebbe dovuto mostrare a tutti la sua ignoranza. Ma Papa Baer lo fece sedere nel vano di una finestra dove voltava le spalle agli altri e dove Franz poteva fargli ripetere le lezioni senza che nessuno sentisse i suoi spropositi o vedesse gli scarabocchi del suo quaderno. Grato di questa attenzione, il fanciullo lavorò con tale impegno che, vedendo il suo visetto accaldato e le dita tutte sporche d'inchiostro, il professore gli disse sorridendo: «Non esagerare, ragazzo mio, se no ti stancherai, non ti mancherà il tempo». «Ma bisogna che io lavori sodo per potermi mettere in pari. Gli altri sanno già un mucchio di cose e io non so nulla», rispose Nat, ridotto alla disperazione perché aveva sentito i ragazzi recitare le loro lezioni di grammatica, di storia e di geografia con una facilità e una sicurezza che gli parvero sbalorditive. «Tu sai molte cose che loro ignorano», ribatté Papa Baer, sedendoglisi accanto mentre Franz guidava un gruppo di piccoli attraverso le complicazioni della tavola pitagorica. «Davvero?» chiese Nat con aria incredula. «Proprio. Prima di tutto tu sai dominarti, e Jack, che è bravo in aritmetica, è incapace di farlo. Questa è una materia molto importante e mi pare che tu la conosca bene. Poi tu sai suonare il violino e nessuno dei ragazzi lo sa fare, sebbene se ne struggano. E soprattutto, Nat, tu hai un sincero desiderio di imparare qualcosa e questo significa già una mezza vittoria. Dapprima ti sembrerà duro e ti sentirai scoraggiato, ma continua a darci dentro e più andrai avanti, più le cose ti parranno facili». Ascoltandolo, Nat s'era andato illuminando in viso perché, per quanto breve fosse la lista delle sue cognizioni, era visibilmente lieto di poter già fare assegnamento su qualche cosa. «È vero, posso dominarmi. Le busse del babbo me l'hanno insegnato. E poi, sì, so suonare il violino. Anche se non so dove si trova il golfo di Biscaglia», pensava con un indicibile senso di conforto. Poi disse forte, tanto che anche Demi lo udì: «Voglio imparare e farò di tutto per riuscire. Non sono mai andato a scuola, ma non certo per colpa mia. E se i miei compagni non mi burleranno troppo, credo che farò progressi. Lei e la signora sono così buoni con me». «Non ti burleranno, sta certo, se no io ci penserò io», esclamò Demi, dimenticando dove si trovava. La moltiplicazione si interruppe di botto a 7 per 9 e tutti si voltarono a guardare che cosa succedeva. Pensando che in quel momento una lezione sul modo di aiutarsi a vicenda fosse più utile dell'aritmetica, Papa Baer parlò loro di Nat, mettendo insieme una storia così interessante e commovente che quei buoni figliuoli promisero di dargli una mano, molto lusingati di essere chiamati a insegnare un po' di quel che sapevano a un ragazzo che suonava così bene il violino. Questo appello creò fra loro una perfetta intesa e Nat incontrò ben pochi ostacoli contro cui lottare, perché tutti erano pronti a dargli una spinta nella conquista del sapere. Però, finché non si fosse un po' irrobustito fisicamente, il molto studio non faceva per lui. Mamma Jo gli trovò quindi degli svaghi in casa, mentre gli altri erano alle prese coi loro libri. Ma la miglior medicina per Nat era il suo campicello, attorno a cui lavorava alacremente, preparando il terreno, seminando le fave, sorvegliandone la crescita e rallegrandosi per ogni fogliolina e per ogni stelo che spuntasse e prosperasse al tepore primaverile. Mai un campo fu zappato con più cura. E Papa Baer cominciò a temere che nulla avrebbe il tempo di crescere, tanto Nat rimestava la terra. Gli dette quindi qualche lavoretto da fare attorno ai fiori e alle fragole, ed egli li sbrigava canterellando tutto affaccendato come le api che gli ronzavano attorno. «Ecco il raccolto che preferisco», soleva dire il Papa Baer, pizzicandogli le guance non più smunte ma tonde e colorite, o battendogli sulle spalle che si raddrizzavano per effetto del lavoro salutare, del cibo buono e della liberazione da quel pesante fardello che è la povertà. Demi era il suo piccolo amico, Tommy il suo protettore e Daisy il suo conforto per ogni pena, perché, sebbene fossero tutti più piccoli di lui, il suo timido spirito si compiaceva della loro innocente compagnia, rifuggendo dagli spassi violenti dei ragazzi più grandi. E signor Lawrence non lo dimenticava, ma gli mandava abiti e libri, musica e parole affettuose, e ogni tanto veniva a constatare i progressi del suo protetto e lo conduceva in città a un concerto, nelle quali occasioni Nat si sentiva trasportato al settimo cielo perché andava nella grande casa del signor Lawrence, dove vedeva la bella signora e quella piccola fata della figlioletta. Mangiava un eccellente pranzo e faceva una tale provvista di felicità da parlarne e sognarne giorno e notte per un bel pezzo. Ci vuole così poco per rendere felice un fanciullo, ed è un vero peccato che in un mondo pieno di gioie e di cose belle vi siano ancora dei volti tristi, delle mani vuote o dei piccoli cuori solitari. Così pensavano i Baer e raccoglievano perciò tutte le briciole che potevano trovare per nutrire il loro branco di passerotti affamati, poiché non avevano altra ricchezza che la loro carità. Molte amiche di mamma Jo le mandavano i giocattoli di cui i loro figliuoli si stancavano così presto, e Nat trovava un'occupazione che gli piaceva molto nell'aggiustarli. Valendosi di quelle sue dita sottili, precise e abili, egli passava più di un pomeriggio piovoso con la bottiglietta della gomma, la scatola dei colori e il coltello a riparare mobiletti, animali e giochi, mentre Daisy era la sarta delle povere bambole mal ridotte. Appena riparati, i giocattoli venivano riposti accuratamente in un certo cassetto, destinato a rifornire un albero di Natale per tutti i bambini poveri del vicinato, perché così i ragazzi di Plumfield celebravano la nascita di colui che amava i poveri e benediva i piccoli. Demi non si stancava mai di leggerli e spiegargli i suoi libri favoriti, ed essi trascorrevano molte ore piacevoli sul vecchio salice, divertendosi un mondo con Robinson Crusoe, Le Mille e Una Notte, i racconti della Edgeworth e le altre immortali e care storie che continueranno a formare la gioia dei ragazzi anche nei secoli a venire. Tutto questo apriva un nuovo mondo agli occhi di Nat, e la smania di conoscere il seguito del racconto lo aiutava nei suoi progressi, tanto che presto imparò a leggere come tutti gli altri, e si sentì così fiero e soddisfatto della sua nuova abilità da far temere che divenisse un divoratore di libri come Demi. Un'altra cosa che assai gli giovò avvenne nel modo più inatteso e piacevole. Molti dei ragazzi si erano dati agli affari, come si dicevano, perché per la maggior parte erano poveri, e i Baer, sapendo che presto avrebbero dovuto farsi la loro strada, incoraggiavano ogni sforzo diretto a renderli indipendenti. Tommy vendeva le uova, Jack speculava in animali vivi, Franz percepiva uno stipendio come assistente del signor Baer, e siccome Ned riusciva bene a lavorare il legno, gli impiantarono un tornio col quale faceva ogni sorta di oggetti utili o di ornamenti che poi vendeva. Mentre Demi costruiva mulini, trottole e macchine sconosciute, tanto complicate quanto inutili, che riusciva a collocare fra i ragazzi. «Faccia pure il meccanico se gli piace», diceva Papa Baer. «Dare un mestiere a un ragazzo significa renderlo indipendente. Il lavoro è salutare, e qualsiasi disposizione gli abbia, o per la poesia o per l'agricoltura, conviene coltivarla e renderla utile per lui, se è possibile». Così, un giorno che Nat corse a chiedergli tutto eccitato: «Posso andare a suonare il violino per certa gente che vuol fare una scampagnata nel nostro bosco? Mi pagherebbero e potrei guadagnare anch'io un po' di denaro. Il violino è l'unico mezzo che abbia per riuscirci». Papa Baer rispose prontamente: «Va pure, è buona fortuna. È un lavoro facile e piacevole, sono contento che ti sia offerto». Nat andò dunque e se la cavò benissimo. Tornò infatti a casa con 2 dollari che mostrò a tutti molto soddisfatto, raccontando quanto si era divertito quel pomeriggio, con quanta gentilezza l'avevano trattato e come avevano lodato i suoi ballabili, promettendo di chiamarlo ancora. «È molto meglio che suonare per le strade, perché allora io non ricevevo un soldo, mentre ora quello che guadagno è tutto mio e per di più mi diverto. Ora sono anch'io negli affari, come Tommy e Jack. Ed una cosa che mi piace molto», disse Nat, battendo tutto orgoglioso sul vecchio portafogli e sentendosi già un milionario. E davvero era negli affari, perché all'inizio dell'estate le merende si fecero più frequenti e Nat fu molto ricercato, data la sua abilità. Lo lasciavano sempre andare, purché non trascurasse le lezioni e le comitive fossero formate di giovani come si deve. Il signor Baer gli aveva spiegato a questo proposito che la buona educazione è necessaria per tutti e che per nessuna somma di denaro avrebbe dovuto recarsi dove potesse essere indotto a comportarsi male. E Nat capiva questo perfettamente. Era un piacere vedere quell'innocente ragazzino andarsene con le allegre comitive che fermavano le carrozze al cancello per prenderlo, o sentirlo tornare a casa suonando, stanco ma felice, col suo denaro ben guadagnato e qualche chicco per Daisy o per il piccolo Ted che non dimenticava mai. Metterò da parte le mie economie finché avrò abbastanza da comperarmi un violino e allora potrò guadagnarmi la vita, vero? Soleva dire quando consegnava i suoi dollari a papà Baer perché glieli conservasse. Lo spero, Nat, ma prima dobbiamo farti diventare forte e robusto e mettere qualche cognizione in più in codesta tua testolina musicale. Allora il signor Lori ti troverà un posto e fra pochi anni verremo tutti a sentirti suonare in pubblico. Con tanto lavoro simpatico, tanti incoraggiamenti e tante speranze, Nat trovava la vita ogni giorno più facile e più felice e faceva tali progressi nella musica che il maestro gli perdonava la sua lentezza in altri campi, ben sapendo che là dove è il cuore, la mente lavora meglio. L'unico castigo che si potesse dargli, se trascurava lezioni importanti, era togliergli per un giorno il violino. La paura di perdere il suo prediletto amico lo riportava di buona voglia ai libri e una volta dimostrato che era capace di superare le difficoltà dello studio, a che scopo dire non mi riesce? Daisy amava molto la musica e provava un gran rispetto per chiunque fosse capace di farne. Spesso la si poteva vedere seduta sugli scalini dietro l'uscio di Nat mentre egli studiava il violino. Questo gli faceva un gran piacere e lo incitava a suonare meglio. Meglio che sapesse, per quell'unica quieta ascoltatrice che mai voleva entrare, ma preferiva restare fuori, cucendo insieme pezzi di stoffa dai vivaci colori o occupandosi di qualcuna delle sue numerose bambole col volto improntato di tale sognante felicità che la zia Jo, con gli occhi pieni di lacrime, diceva fra sé: «Come somiglia la mia Beth!» e si allontanava pian piano per non turbare neppure con la sua presenza familiare la dolce contentezza della bambina. Nat voleva molto bene a mamma Baer, ma trovava qualcosa di ancora più attraente nel professore, che si curava come un buon papà del debole e timido fanciullo. Scampato per miracolo al mare burrascoso sul quale la sua barchetta era stata spietatamente sballottata per 12 anni. Qualche buon angelo doveva aver vegliato su di lui, perché se il suo corpo aveva sofferto, l'anima sembrava quasi illesa, ed era giunta a riva innocente come un naufrago neonato. Forse era stato l'amore per la musica a conservargli la sua dolcezza fra tante dissonanze, così almeno diceva il signor Lori che doveva intendersene. Comunque fosse, papà Baer si compiaceva di alimentare le virtù del povero Nat e di correggerne i difetti. In effetti, c'era un difetto di Nat che li preoccupava molto, sebbene comprendessero che derivava dalla paura e dall'ignoranza. Mi duole dover ammettere che qualche volta diceva delle bugie. Non gravi, è vero, spesso innocentissime frottole, ma una bugia è pur sempre una bugia, e se anche in questo nostro strano mondo tutti per educazione alteriamo qualche volta il vero, nessuno ignora che questa non è una bella cosa. Sta attento, per carità, sorveglia la tua lingua, i tuoi occhi e le tue mani, perché è facile dire, vedere e fare cose contrarie al vero, disse una volta papà Baer, parlando con Nat di questo suo capitale difetto. Lo so. E non lo faccio apposta, ma è tanto più facile andare avanti senza lo scrupolo di dire proprio la verità. Prima dicevo le bugie perché avevo paura del babbo e di Nicolò, e ora qualche volta ne dico perché i ragazzi mi canzonano. Lo so che è male, ma me ne scordo, confessò Nat con l'aria di essere molto avvilito dei suoi peccati. Anch'io, quando ero un ragazzetto, imbastivo certe frottole. Fu la nonna a guarirmi da questo vizio, e sai come? I miei genitori avevano cercato di farmi ragionare, mi avevano sgridato, punito, ma io continuavo a dimenticarmene, come fai tu. Allora la vecchia nonna mi disse: «Io ti voglio aiutare a ricordartene, vedrai che riuscirò a mettere un freno a codesta lingua». Me la fece tirare fuori e ci dette un taglietto con le forbici. Uscì del sangue e fu una cosa terribile, ma mi giovò molto perché la lingua continuò a farmi male per parecchi giorni e le parole mi venivano fuori così adagio che avevo tutto il tempo di pensarci su. Dopo di allora stetti più attento. E migliorai molto perché avevo una gran paura di quelle forbicione. Eppure la mia cara nonna era tanto buona con me e quando stava morendo lontana di qui a Norimberga pregava perché suo piccolo Fritz amasse sempre Dio e la verità. Io non ho mai avuto nonne, ma se lei crede che possa servire a correggermi, mi tagli pure la lingua, disse Natta eroicamente perché temeva il dolore ma desiderava smettere di contar frottole. Conosco un sistema migliore e l'ho sperimentato una volta con buon risultato. Ecco, quando tu dirai una bugia, invece di essere io a punirti, sarai tu a punire me. Come? Chiese Nat sbalordito. Tu mi sferzerai, come usava nel buon tempo antico. È una cosa che io faccio di rado, ma è probabile che far male a me aiuterà la tua memoria, più che se dovessi soffrire tu stesso. Io? Battere lei? Impossibile, esclamò Nat. E allora, attento con codesta tua lingua che corre troppo, io non ho nessuna voglia di prendermele, ma sopporterei volentieri qualunque dolore per correggerti del tuo difetto. Questa prospettiva fece una tale impressione su Nat che per molto tempo controllò la sua lingua, esercitando una disperata vigilanza su se stesso, perché, come il signor Baer aveva giustamente pensato, l'affetto per lui era in Nat più efficace della paura per sé. Ma purtroppo, un triste giorno, il fanciullo si lasciò cogliere di sorpresa e quando Emily, infuriato, lo minacciò di suonargliele, se era stato lui a calpestare il suo campicello spezzando i più bei gambi di Gran Turco, egli negò recisamente e dopo non ebbe più il coraggio di confessare che l'aveva fatto la sera prima, quando Jack gli correva dietro. Era persuaso che nessuno avrebbe scoperto la verità, ma per caso Tommy lo aveva visto. E quando un giorno o due dopo Emil tornò sull'argomento, spifferò ogni cosa. Le lezioni erano finite e si trovavano tutti nel vestibolo. Il signor Baer si era appena seduto sul divano di Vimini per giocare con Teddy quando sentì le parole di Tommy e vide Nat che col viso in fiamme lo guardava con aria spaventata. Allora posò a terra il bimbo dicendo: «Vai dalla mamma, tesoro, io verrò subito». Poi prese Nat per mano, lo condusse nella classe e chiuse la porta. I ragazzi si guardarono per un minuto in silenzio, poi Tommy sgusciò fuori e, spiando attraverso le persiane socchiuse, vide uno spettacolo che lo sbalordì. Il signor Baer aveva staccato un lungo staffile appeso sopra la cattedra e usato così di rado che era tutto coperto di polvere. Povero me, questa volta Nat se le prende sul serio. Potevo ben stare zitto, pensava il buon Tommy, perché essere sferzati era la peggiore vergogna in quella scuola. Ricordi quello che ti ho detto l'ultima volta? Chiese papà Baer, non irritato, ma triste. Sì, ma per carità, non me lo faccia fare. Non posso sopportarlo, gridò Nat, addossandosi alla porta con le mani dietro la schiena e sul volto un'espressione di indicibile angoscia. Perché non si fa coraggio e prende la cosa da uomo? Io non mi comporterei così, pensava Tommy, sebbene il cuore gli battesse forte a quello spettacolo. Manterrò la mia parola e tu dovrai ricordare di dire la verità. Obbedisci, Nat, prendi e dammi 6 buoni colpi. Tommy, a queste ultime parole, per poco non perse l'equilibrio e non cadde dalla panca su cui era salito, ma riuscì ad aggrapparsi al davanzale e continuò ad osservare la scena con gli occhi sbarrati e tondi come quelli della civetta imbalsamata sulla mensola del camino. Nat prese lo staffile, perché quando papà Baer parlava in quel tono tutti gli obbedivano. E con un'aria atterrita e colpevole, come se stesse per pugnalare il suo maestro, batté 2 deboli colpi sulla larga palma tesa verso di lui. Poi si fermò, alzando gli occhi mezzo accecati dalle lacrime, ma papà Baer disse energicamente: «Avanti e batti più forte!» Vedendo che non poteva sottrarsi a quel penoso incarico e smanioso di finire al più presto, Nat si coprì gli occhi con un braccio e dette in fretta 2 colpi più forti. La mano divenne rossa, ma chi li aveva dati soffriva più di chi li aveva ricevuti. «Non basta ancora?» chiese quasi senza voce. «Altri 2», fu la risposta. Ed egli li dette senza quasi vedere dove cadevano. Poi gettò via lo staffile e, stringendo la cara mano fra le sue, vi nascose contro la faccia, singhiozzando in un parossismo di affetto, di vergogna, di pentimento. «Me ne ricorderò! Oh sì, me ne ricorderò!» Allora il signor Baer, cingendogli le spalle col braccio, disse con un tono tanto tenero quanto prima era stato energico. Lo credo. Prega il buon Dio di aiutarti e cerca di risparmiare tanto a te che a me un'altra scena come questa. Tommy non vide altro, perché sgusciò nel vestibolo con un'aria così eccitata, eppure così seria, che i ragazzi gli si affollarono attorno per sapere che mai stesse succedendo a Nat. A bassa voce, ma in tono impressionante, egli riferì quanto aveva visto e parve a tutti che il cielo stesse per precipitare sulle loro teste, perché quel capovolgimento dell'ordine naturale delle cose li lasciava senza fiato. Una volta è toccato anche a me, disse Emil con l'aria di confessare un nero delitto. E hai potuto picchiarlo? Il nostro buon papà Baer! Tuoni e fulmini! Vorrei che tu ti ci provassi ora! Esclamò Ned, afferrandolo per il collo in un accesso di giusta collera. È successo tanto tempo fa, ora mi lascerei piuttosto tagliare la testa. Ed Emil respinse dolcemente Ned invece di prenderlo a pugni, come non avrebbe mancato di fare in una occasione meno solenne. Ma come hai potuto? Chiese Demi sbigottito. Ero fuori di me dalla rabbia e credevo che non me ne sarebbe importato nulla, anzi, che forse ci avrei provato gusto. Ma quando gli ebbi assestato un bel colpo, mi tornò in mente tutto quello che lo zio aveva fatto per me e non potei continuare. Proprio no. Se anche mi avesse buttato a terra e calpestato, non mi sarebbe rincresciuto. Mi sentivo un essere così spregevole. E si dette un bel pugno nel petto per esprimere il suo rimorso. Nat si sta sciogliendo in lacrime ed è così disperato che è meglio non parlargliene, vero? Disse il buon Tommy. Naturale, ma è una gran brutta cosa dire le bugie. E parve che Demi trovasse molto più grave la colpa, perché il castigo non era ricaduto sul colpevole, ma sul suo ottimo zio Fritz. Che sarebbe se ce la squagliassimo? Così Nat può salir di sopra se ne ha voglia. Propose Franz avviandosi per primo verso il capannone, che era il loro rifugio nei momenti difficili. Nat non scese a pranzo, ma Mamma Jo gli portò qualcosa da mangiare e gli disse una parola affettuosa che gli fece bene, quantunque non osasse guardarla in faccia. Poco dopo, mentre giocavano fuori, i ragazzi sentirono il suono del violino e pensarono che doveva essersi consolato. Era così, infatti, ma si vergognava di scendere e pensava di svegnarsela nel bosco quando, aperta la porta, trovò Daisy seduta sui gradini, senza lavoro e senza bambola, ma solo con un fazzolettino in mano, come se avesse pianto sul suo amico prigioniero. «Vado a fare un giro, vuoi venire?» le chiese Nat, cercando di darsi un'aria disinvolta, ma riconfortato dalla sua silenziosa simpatia, perché supponeva che tutti dovessero considerarlo un miserabile. Oh sì! E Daisy corse a prendere il cappello, molto fiera che uno dei ragazzi grandi l'avesse scelta come compagna per andare a spasso. Gli altri li videro uscire, ma nessuno li seguì. I ragazzi hanno un senso di delicatezza maggiore di quanto si creda, ed essi sentivano istintivamente che per uno caduto in disgrazia, la piccola Daisy così gentile era l'amica più adatta. La passeggiata fece bene a Nat, che tornò a casa più quieto del solito, ma sereno, tutto inghirlandato con catene di margheritine fatte dalla sua piccola compagna, mentre egli, disteso sull'erba, le raccontava delle novelle. Nessuno parlò della scena del mattino, ma forse appunto per questo il suo effetto fu più duraturo. Nat fece del suo meglio, trovando molto aiuto non solo nelle brevi preghiere rivolte fervidamente al suo amico nel cielo, ma anche nelle cure pazienti del suo amico terreno, la cui benefica mano non poteva mai toccare senza ricordarsi del dolore cui si era volontariamente esposta per amor suo. Capitolo 5. Pentolini. Che c'è, Daisy? I ragazzi non mi vogliono lasciar giocare con loro. Perché? Dicono che giocare al calcio non va per le ragazze. Non è vero, perché io lo giocavo. E Mamma Baer rise ricordando certe sue matie giovanili. Lo so che son capace. Con Demi si giocava sempre e ci si divertiva un mondo, ma ora non me lo lascia più fare perché gli altri ragazzi lo canzonano. E Daisy aveva l'aria profondamente rattristata per la crudeltà di suo fratello. Beh, in fondo, cara, non ha tutti i torti. La cosa va benissimo quando siete voi due soli, ma è un gioco troppo violento per te, insieme con una dozzina di ragazzi. Al posto tuo cercherei un bel modo di divertirmi senza di loro. Ma io ne ho abbastanza di giocare da sola, protestò Daisy in tono dolente. Giocherei volentieri io con te, tesoro, ma ora devo correre attorno a preparare un mucchio di cose prima di fare una scappata in città. Se vuoi venire con me, andremo dalla mamma e se ne hai voglia potrai restare con lei. Verrò molto volentieri a riabbracciarle e a vedere la piccola Josie, ma dopo, ti prego, riconducimi qui. Demi sentirebbe troppo la mia mancanza e io sto tanto volentieri a Plumfield, zietta cara. Non puoi proprio fare a meno del tuo Demi, vero? Disse la zia Jo, con l'aria di capire perfettamente l'affetto della bimba per il suo unico fratello. Ma è naturale, zietta, siamo gemelli e quindi ci vogliamo più bene che gli altri, rispose Daisy illuminandosi tutta, perché le pareva che essere gemella fosse il più alto degli onori. E ora che farai di te, piccola mia, mentre io sbrigo le mie faccende? Chiese mamma Bayer, che stava riponendo con grande rapidità mucchi di biancheria in un armadio. Non lo so. Sono stufa di bambole e di cose simili. Vorrei che tu inventassi un gioco nuovo per me, zia Jo, rispose la bimba, indugiando svogliata sulla porta. Bisognerà che ne studi uno nuovo di zecca e mi ci vorrà tempo. Non potresti scendere a vedere che cosa ha preparato Asia per colazione? Suggerì mamma Bayer, pensando che quello fosse il mezzo migliore per sbarazzarsi momentaneamente di quel piccolo fastidio. Sì, magari, purché però non sia di cattivo umore. E Daisy si avviò lentamente verso la cucina, dove Asia, la cuoca nera, regnava indisturbata. 5 minuti dopo era di ritorno, tutta vivace, con un pezzo di pasta in mano e il nasetto infarinato. Oh, zietta, mi permetti di stare in cucina a fare le ciambelle? Asia è di buon umore e non mi manda via, e io mi divertirei tanto. Sì, buona zietta, esclamò la bimba tutto d'un fiato. Proprio quello che ci voleva. Va e divertiti, fa quello che vuoi e restaci finché ti pare, rispose mamma Bayer molto sollevata, perché certe volte quell'unica bambina era più difficile da divertire dei 12 ragazzi messi insieme. Daisy corse via e la zia Jo continuò a sbrigare le sue faccende, stillandosi il cervello nella ricerca di un nuovo gioco. Tutt'a un tratto dovette balenarle un'idea, perché sorrise tra sé e sé, chiuse l'armadio e si allontanò in fretta, mormorando: Se ci arrivo, voglio proprio farlo. Di che si trattasse, nessuno lo seppe quel giorno, ma gli occhi della zia Jo avevano un'espressione così maliziosa quando annunziò a Daisy di averle trovato un nuovo gioco e di aver deciso di andare a comperarlo, che la bimba, molto eccitata, continuò a tempestarla di domande durante tutto il tragitto, senza però ottenere risposte soddisfacenti. La zia la lasciò a casa sua a giocare con la sorellina e a deliziare gli occhi della mamma mentre ella andava in giro per i negozi. Quando tornò, dopo aver riempito di ogni sorta di curiosi pacchetti ogni angolo della carrozza, Daisy era così incuriosita che avrebbe voluto tornare subito a Plumfield, ma la zia non pareva aver fretta e si trattenne a lungo nella stanza della sorella, seduta sul pavimento con la bimba in grembo, facendo ridere la signora Brooke con le prodezze dei ragazzi e ogni sorta di amene trovate. Quando sua zia avesse potuto rivelare il segreto, Daisy non seppe immaginarlo, ma la mamma evidentemente lo conosceva, perché legandole il cappellino sotto il mento e baciandola sulla faccetta rosea, le disse: Sii buona, Daisy, e impara il nuovo gioco che la zia ti ha procurato. È molto utile e interessante, e la zia è davvero buona a giocarlo con te, perché non è una cosa che le piaccia molto. E le due signore scoppiarono a ridere, aumentando lo sbalordimento della bimba. Mentre tornavano a casa, in carrozza, qualcosa tintinnò alle loro spalle. Che cos'è? Chiese Daisy, drizzando le orecchie. Il nuovo gioco. Di che cosa è fatto? Di ferro, latta, legno, ottone, zucchero, sale, carbone e 100 altre cose. Strano. E di che colore è? Di tutti i colori. È grande? Una parte è grande, una parte no. Ne ho mai visto uno? Chissà quanti, ma nessuno bello così. Ma che sarà mai? Non posso aspettare. Quando me lo lasci vedere? Chiese Daisy, saltando sul sedile per l'impazienza. Domattina, dopo le lezioni. E anche per i ragazzi? No, solo per te e per Bess. Ai ragazzi piacerà vederlo e vorranno giocare con una parte di esso, ma tu sei padrona di permetterlo o no? Lascerò che ci giochi Demi se lo desidera. Oh, sta sicura che vorranno farlo tutti, specialmente Staffi. E gli occhi della signora Bayer erano più maliziosi che mai, mentre con la palma batteva sopra un curioso pacco tutto protuberanze che teneva sulle ginocchia. Lasciamelo tastare una volta sola, spiegò Daisy. Neppure una toccatina. Indovineresti subito e ti sciuperesti la sorpresa. Ah, Daisy, sfuggì un sospirone. Ma si illuminò immediatamente in faccia, perché attraverso un piccolo buco nella carta aveva intravisto qualcosa che luccicava. Come farò ad aspettare tanto? Non potrei vederlo oggi. No, cara, no. Deve essere montato e le varie parti fissate, ciascuna al suo posto. E poi ho promesso allo zio Teddy di non lasciartelo vedere finché non fosse perfettamente in ordine. Se lo sa anche lo zio, deve essere una cosa splendida, esclamò Daisy battendo le mani, perché quello zio, tanto caro, ricco e allegro, era per i bambini come una madrina dei racconti delle fate, e non faceva che preparare loro liete sorprese, bei doni e divertimenti originali. Sì, Teddy è venuto a fare gli acquisti con me, e ci siamo divertiti un mondo a scegliere i vari pezzi. Voleva tutta la roba più bella. E il mio modesto progetto ha acquistato splendide proporzioni appena se ne è impadronito lui. Quando verrà, dovrai dargli un bel bacio, perché è il migliore zio che abbia mai comperato una deliziosa cu... Oh, povera me! C'è mancato poco che non ti dicessi di che si tratta. E mamma Baer lasciò a mezzo la interessantissima parola e si mise a scorrere certi conti, quasi temesse di tradirsi parlando ancora. Daisy congiunse le mani con aria rassegnata e stette quieta, cercando di indovinare quale gioco potesse cominciare con Q. Quando arrivarono a casa, osservò tutti i pacchi che venivano estratti dalla carrozza. Uno specialmente, grande e pesante, che Franz portò subito di sopra nella stanza della bambinaia. Aumentò ancora il suo stupore e la sua curiosità. Qualcosa di molto misterioso si svolse lassù quel pomeriggio. Franz dava di gran martellare. Asia trottava su e giù e la zia Jo aleggiava intorno come un fuoco fatuo con ogni sorta di cose nascoste sotto il grembiale, mentre il piccolo Ted, unico ammesso a vedere perché non parlava ancora spedito, ciangottava e rideva cercando di dire che cosa fosse quella glossa sorpresa. Tutto questo portò al parossismo l'eccitazione di Daisy, che si diffuse anche fra i ragazzi, i quali per poco non soffocarono mamma Baer con le offerte di aiuto, ma lei le rifiutò, citando le loro stesse parole a Daisy. Le ragazze non possono giocare coi maschi. Questo è per Daisy, per Bess e per me. Quindi non vi vogliamo. Dopodiché i signorini si ritirarono mortificati, affrettandosi poi a invitare Daisy a giocare alle palline, ai cavalli, al calcio, a tutto quanto volesse, con un calore e una gentilezza improvvisi che stupirono la sua piccola anima innocente. Grazie a queste premure, ella riuscì a far passare il pomeriggio. Poi andò presto a letto e la mattina dopo seguì le lezioni con tale ardore che lo zio Fritz si augurò che ogni giorno si inventasse un nuovo gioco. Tutta la scolaresca era fremente di emozione quando Daisy fu rimessa in libertà alle 11, perché tutti sapevano che ora finalmente avrebbe visto il nuovo e misterioso gioco. Molti occhi la seguirono mentre si allontanava di corsa. Ed Emi era così distratto che quando Franz gli chiese dove si trova il deserto di Sahara, rispose: «Nella stanza della bambinaia!» E tutti scoppiarono a ridere. «Zia Jo, ho finito le mie lezioni e non posso aspettare un minuto di più!» esclamò Daisy precipitandosi nella stanza di mamma Baer. «È tutto pronto, andiamo pure!» E mettendosi Ted sotto un braccio e il suo cestino da lavoro sotto l'altro, zia Jo la precedette, salendo svelta al piano di sopra.